Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Quante volte alziamo gli occhi al cielo? Possiamo farlo per cercare l'ispirazione o quando il limite di sopportazione sta per essere superato? Almeno questo è quello che succede a me. Ma oggi, cari amici, abbiamo una buona ragione per alzare lo sguardo. Oggi il cielo sta preparando per noi uno spettacolo straordinario, l'eclissi totale di luna, se naturalmente piogge e nuvole non rovineranno tutto. Questa volta, dicono gli esperti, la luna sarà rossa, la si potrà ammirare ad occhio nudo da tutta Italia. E in linea con noi abbiamo il dottor Luca Buzzi, ricercatore dell'osservatorio Schiaparelli di Campo dei Fiori di Varese. Dottore, buongiorno. Sì, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, ci racconta che cosa succederà e a che ora? Sì, ha proprio ragione. Innanzitutto questa eclisse sarà l'evento astronomico di maggiore interesse quest'anno e fortunatamente le eclissi sono degli eventi che sono ben osservabili ad occhio nudo anche senza l'ausilio dei telescopi. Diciamo che questa eclisse in particolare, il consiglio che possiamo dare è di recarsi comunque in un luogo che abbia l'orizzonte verso sud-est, libero da ostacoli, anche perché la luna sarà un po' bassa in cielo, quindi rimane un buon motivo per farsi una scampagnata fuori città. Diciamo che la luna sorgerà verso poco dopo le 9, sì, già eclissata, però il massimo del fenomeno si avrà per l'esattezza dalle 21:20 circa fino alle 23, quindi abbiamo un buon lasso di tempo per osservarla. E sarà una luna rossa, di un rosso più o meno cupo? Diciamo di sì, il grado di chiaroscuro, diciamo così, di tonalità di rosso dipende da quante polveri sono presenti nella nostra stratosfera. Certe proiezioni dicono che probabilmente la luna visibile questa sera sarà piuttosto scura, piuttosto cupa a causa di eruzioni vulcaniche, soprattutto di un vulcano che recentemente sta eruttando polveri in Cile, quindi sarà un'eclisse abbastanza scura. Dottor Buzzi, quando ci sarà il prossimo appuntamento con una luna rossa? Diciamo che ci sono diverse eclissi ogni anno, per esempio tra Sole e Luna quest'anno ce ne avremo 6, ne abbiamo avute 4 l'anno passato, eccetera, però purtroppo non sempre si riescono a vedere dall'Italia. Per esempio la prossima eclisse di Luna totale ben visibile dall'Italia sarà purtroppo soltanto a settembre del 2015, quindi dobbiamo aspettare un po' di tempo. Grazie dottore, penseremo a lei guardando la luna rossa. Buona grazie. Giornata. Grazie mille a voi, buona giornata. Allora, un appuntamento immancabile da non perdere, come la puntata di oggi, che proprio in occasione dell'eclisse abbiamo voluto dedicare allo sguardo sfuggente, fermo, tenero, duro, ingenuo, malizioso. Con gli occhi possiamo trasmettere un'infinità di messaggi. Ci sono anche delle storie d'amore che nascono con uno sguardo. Magari ne conoscete qualcuno, forse ne siete i protagonisti. 800 24 00 24. C'è uno sguardo che vi ha stregato? C'è un tipo di sguardo che vorreste ricevere? C'è uno sguardo che vorreste si posasse su di voi? Uno sguardo di cui avete nostalgia? Scriveteci e chiamateci per diventare protagonisti con la vostra storia di questa puntata, che mi piacerebbe intitolare Questioni di sguardi. Con noi, come sempre, tanti ospiti che ci aiuteranno ad affrontare il tema da diverse angolature. Guarda in su, guarda in giù. Ogni volta che guardiamo, ogni volta che i nostri occhi si posano su qualcosa, su qualcuno, qualcosa cambia a livello dei nostri piedi, della nostra colonna, della bocca, della respirazione, della deglutizione. Vogliamo provare a prenderne consapevolezza? Intanto, se volete farlo con noi, intervenite 800 24 00 24. E intanto io saluto il dottor Massimo Rossato, che è medico chirurgo odontoiatra, specialista in anestesia e terapia del dolore e presidente posturologi CIES Italia. Dottor Rossato, buongiorno. Sì, buongiorno a lei e buongiorno anche a tutti i nostri ascoltatori. Allora, dottore, proviamo a capire che cosa succede quando noi guardiamo. Gli occhi ci permettono proprio di entrare in relazione con l'ambiente che ci circonda. Ecco, sì, certamente è importante capire che noi siamo diventati bipedi, abbiamo una struttura che ci consente la stazione retta, la deambulazione, quindi abbiamo, si suol dire, un asse viso-podalico, un asse che dagli occhi scende ai piedi e ci consente questa nostra posizione, questa nostra postura. Ecco, se i nostri ascoltatori per esempio volessero capire subito di che cosa stiamo parlando, se loro tirano la testa indietro, vanno all'indietro con la testa e poi deglutiscono, un'azione molto facile, si accorgono immediatamente che una cosa facile diventa difficile. È vero. Proviamo, testa indietro, deglutiamo. Si deglutisce molto più facilmente a tenere la testa dritta. Certo, e poi se vogliamo anche capire come i nostri denti modifichino la nostra occlusione, se noi apriamo la bocca, poi tiriamo la testa indietro e chiudiamo i denti, sentiamo che si toccano i denti più posteriori. Se poi riportiamo la testa dritta, apriamo la bocca e la pieghiamo in avanti, la affettiamo in avanti, andiamo a chiudere, troviamo che questa volta si incontrano gli incisivi, i denti della parte anteriore, i denti davanti. Questo ci fa capire come anche l'occlusione non sia poi così rigida, così fissa come si suol pensare. Abbiamo fatto questo esercizio, ma la stessa cosa succede anche quando guardiamo qualcosa alla nostra destra, alla nostra sinistra, dottore, vero? Perché i muscoli... Ah, sì, senz'altro. Ecco, un altro esercizietto semplice, così abbiamo coinvolto tutti i nostri ascoltatori. Se noi giriamo la testa a destra e a sinistra e vediamo i nostri limiti, sì, li conosciamo. Poi, subito dopo, prima di girare la testa a destra, giriamo i nostri occhi completamente verso destra e poi giriamo la testa e vediamo che la testa di colpo si gira di più. Poi li giriamo gli occhi a sinistra e poi giriamo la testa a sinistra e vediamo che la testa gira di più a sinistra. Ecco, sembra subito... una magia, ma come... È la neurofisiologia, è la conoscenza dei riflessi del nostro corpo. La postura è sotto controllo del cervello. Allora, se volete parlare con noi, partendo proprio dal vostro sguardo, da come vedete le cose che vi circondano e prendere consapevolezza delle alterazioni, delle cose che si spostano, si modificano, proprio le abbiamo seguite, no? Con il dottor Rossato, intervenite 800 24 00 24 e stiamo cercando di capire che i nostri occhi condizionano la nostra postura. Ma adesso andiamo a vedere, a cercare di capire da che cosa è influenzato il nostro sguardo, che cosa lo rende unico, che cosa lo rende capace di riflettere quello che siamo e stiamo vivendo. Occhi che sanno parlare, che ti prendono così e ci fanno ragionare sul percorso della vita, sulla nostra storia infinita. Occhi che sanno cercare, occhi che sanno parlare, occhi che sanno cercare. Ma per la medicina cinese gli occhi sono il riflesso del fegato. Io non mi riferisco al fegato come lo intendiamo noi, ma il fegato rappresenta in medicina cinese la nostra capacità di saper prendere la vita, di affrontarla per il verso giusto. Ma c'è di più, c'è molto di più, e soprattutto in linea con noi c'è il dottor Maurizio Corradin, medico esperto di medicina tradizionale cinese, direttore del comitato scientifico di Le Fay Resort, uno dei nostri esperti del Daily Lab. Dottor Corradin, bentornato. Buongiorno a te e a tutti. Dottor, allora, sì. Gli occhi. Sì, possiamo, dobbiamo riprendere il dottor Corradin perché abbiamo un disturbino, ma io continuerei con il dottor Rossato perché oggi proprio insieme a lei vogliamo occuparci dello stretto legame tra sguardo e postura, e quindi vorrei che lei aiutasse i nostri ascoltatori a capire come possono approfittare dei suoi consigli, dottore. Dottor Rossato, sì. Sì. Sì. Volevo capire da lei come i nostri ascoltatori possono approfittare dei suoi consigli oggi per cercare di osservare il mondo nel modo, nella migliore sintonia possibile con le nostre strutture muscolari e articolari, con quello che abbiamo intorno. Sì, certo, certamente. Allora, cerchiamo di essere molto pratici. Sì. I nostri giovani hanno finito la scuola, sì. Adesso non hanno più l'ansia della riuscita, dei compiti, dell'esame, anzi, alcuni oggi sono sotto esame, ma sicuramente, forse più per le mamme che per i bambini, si potrebbe insegnare un bell'esercizio che porterà sicuramente ai nostri figli una capacità di apprendere e memorizzare meglio, capire meglio quello che leggono e quindi anche un miglior rendimento scolastico. Questo funziona anche per chi non è più bambino, dottor Rossato, sì, mi auguro. Su di tutti, perché fantastico. I nostri occhi hanno una riserva funzionale. Bene. Allora, siamo pronti. Allora, se voi prendete un foglio scritto, diciamo, con dei caratteri abbastanza grandi e abbastanza facili, e si fa mettere la mano del bambino, non quella della mamma, ma la mano del bambino che fa descrivere al foglio che il bambino deve leggere un cerchio in senso orario o in senso poi antiorario, e il bambino dovrà leggere a voce alta, scandendo bene quello che sta leggendo, mentre il foglio ruota. In questo modo i muscoli oculomotori che muovono i globi oculari si allenano a eseguire un lavoro che va nella parte cognitiva, quella dell'apprendimento. E funziona molto molto bene. E bisogna fare questo esercizio quotidianamente? Beh sì, sicuramente sì, per avere dei risultati molto buoni sì, sicuramente sì. E possiamo farlo anche noi, quindi sì, allenarci a leggere con un foglio che ruota. Sì. 800 24 00 24, se volete raccontarci che cosa state vedendo, ma come vi sentite quando il vostro sguardo si posa su qualcosa che è davanti a voi, sopra, sotto di voi, a destra o a sinistra, se con gli esercizi di consapevolezza, chiamiamoli così, che ci ha suggerito il dottor Rossato, avete evidenziato delle piccole tensioni. Parliamone insieme, il nostro numero verde è a vostra disposizione ed è tornato il dottor Corradin. Dottor Corradin, buongiorno a tutti. Allora, intanto sì, si diceva che gli occhi sono per la medicina cinese la manifestazione del nostro spirito, sì, della nostra forza interiore. C'è un vecchio assioma della medicina cinese che dice che quando un soggetto sta particolarmente bene lo si vede nella luminosità della pelle, ma particolarmente in questa brillantezza degli occhi. Quindi gli occhi sono da un lato l'espressione del nostro spirito e dall'altro l'espressione del nostro fegato. Il fegato energetico, che altro che non è che la leggerezza nella vita, il fatto di sentirsi bene, il fatto di poter osservare se stessi e gli altri e il mondo che ci circonda con spirito costruttivo, propositivo, con serenità di fondo, è la gioia nella vita, se lo volessimo dire in una parola. Ovviamente poi possiamo entrare nella fisionomica e gli occhi e le ciglia allora ci dicono una infinità di notizie. E gli occhi e le ciglia ci raccontano come un individuo è. Gli occhi grandi ci indicano la passione e la voglia di vivere, la passione verso il mondo, che è l'occhio sinistro in particolare, l'occhio destro in particolare, e la passione verso se stessi. Poi se l'occhio destro è più grande, spesso questi sono soggetti che hanno un atteggiamento un po' da prima donna. Se gli occhi invece sono piccoli, sono soggetti più rivolti verso se stesso, più timidi, più introversi. Gli occhi un po' incavati ci indicano la difficoltà di guardare se stessi o il mondo. Se gli occhi sono leggermente verso l'alto ci indicano un soggetto ottimista, se sono un po' verso il basso ci indicano soggetti che si sentono un po' martiri della vita. Insomma, gli occhi ci raccontano un'infinità di cose, molte altre se volete ve le racconto parlando della zona sotto gli occhi e parlando delle caratteristiche delle sopracciglia. Le sopracciglia mi interessano molto, si dedica particolare attenzione alla loro forma. Certamente. Lo fanno ormai anche gli uomini. Ah, sicuramente le sopracciglia ci indicano una infinità di caratteristiche. La lunghezza, se le sopracciglia sono lunghe e un po' arruffate, generalmente questo capita nei soggetti arrabbiati o frustrati. Se invece le sopracciglia sono spesse, però sono abbastanza regolari, ci indicano soggetti più spesso leali, coraggiosi ed onesti. Se le sopracciglia sono ben disegnate ad arco, sono in genere in soggetti equilibrati. Se le sopracciglia tendono ad essere un po' simmetriche, allora ci indicano più spesso soggetti che accettano diversi punti di vista. E non ti avevo detto la cosa più importante, cioè... Me la dica! La cosa più importante, che si lega molto con quanto ci raccontava il dottor Rossato prima, che a partire dal piede e arrivare all'interno degli occhi partono due linee straordinarie. Le linee straordinarie, i meridiani curiosi cosiddetti della medicina cinese, sono quelli che hanno a che fare con la posizione che l'uomo assume verso il mondo e la posizione e la nostra capacità di trasformare la nostra vita. Queste due linee energetiche, che per inciso si chiamano Qiao, che sono le due linee energetiche della postura, nella lettura ovviamente energetica, è il modo che noi abbiamo di guardare noi stessi e il modo che noi abbiamo di guardare il mondo. Se mi permetti solo un secondo. Certo. Io sono 20 anni che sono qui in Lombardia e ancora mi dicono che ho l'accento veneto. Possiamo dire qualcosa del genere con gli occhi. Siamo talmente abituati a vedere nel solito modo che non riusciamo a modificare il nostro modo di vedere le cose e specialmente il modo di vedere noi stessi. Se noi ci consideriamo brutti, diventiamo brutti. Se noi ci vediamo belli, diventiamo belli. Quindi ci sono queste linee energetiche che da un lato controllano la postura e dall'altro controllano il modo che abbiamo, il nostro modo unico, personale, che è di vedere il mondo e di vedere noi stessi. E quindi è tutto legato, perché a seconda di come noi ci vediamo, ci presentiamo al mondo e osserviamo il mondo. La nostra postura cambia anche in base ai nostri stati d'animo. 800 24 00 24 è il numero che ha fatto Mariangela da Latina per intervenire in trasmissione. Benvenuta Mariangela. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno professore. Senta, io ho un problema e praticamente in quello che lei ha detto mi ritrovo. Tendo a piegarmi in avanti, ho anche i piedi dalla nascita che vanno in dentro. E quindi sono una persona retta, onesta, diciamo, in questa situazione mi ritrovo, ma allo stesso tempo mi chiudo in me stessa perché il mondo che mi circonda magari non va il mio modo di pensare, non è giusto per il mio modo di pensare. Dottor Corradin. Ah, proprio questo è bellissimo. C'è una linea energetica che si chiama Yang Ming. Yang Ming, che è il meridiano dello stomaco, detto in modo più semplice. Questa linea è un'altra linea della postura. Nel nostro testo classico, già nel IV secolo avanti Cristo, si diceva che è la linea della protezione. Quando questa linea della protezione, questa linea dello stomaco, questa linea che si trova anteriormente, entra in ipercontrazione per la paura nei confronti di ciò che riceviamo dal mondo e per l'incapacità di trovare questa luce dentro di noi, detto in altri termini, che vuol dire ma che dicano o che pensano o che facciano quello che vogliono gli altri, sì, cambia completamente la nostra postura, tendiamo a ripiegarci in avanti. Ovviamente il dottor Rossato ci darebbe una spiegazione neurofisiologica al discorso, ma la componente psicosomatica per me è almeno altrettanto importante. Essere e benessere. L'anima di una persona è nascosta nel suo sguardo. Per questo abbiamo paura di farci guardare negli occhi. Jim Morrison. Ma noi non abbiamo paura di farci guardare negli occhi dal dottor Antonio Scialdone, responsabile dell'unità operativa oculistica prima dal Fate Bene Fratelli di Milano. Dottore, buongiorno. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Dottor Scialdone, se il modo in cui guardiamo è così importante per la nostra postura, ce l'ha spiegato il dottor Rossato, dobbiamo augurarci di vederci bene, nel caso di correggere adeguatamente eventuali disturbi visivi e ancora di individuarli precocemente, perché come abbiamo avuto modo di dire più volte, spesso non ci rendiamo conto che la nostra vista cala. Ah, certo. Beh, io potrei citare a questo proposito casi che per fortuna non sono frequentissimi, ma ci sono, della sindrome di Brown, per esempio, che è un'anomalia di un muscolo oculare che causa molto spesso una ciclotorsione, cioè l'occhio ruota leggermente perché non riesce a muoversi bene, e i bambini, perché è una cosa di tipo congenito, assumono una posizione della testa storta e conseguentemente a quella poi anche della colonna vertebrale, eccetera, per non parlare per esempio anche dei bambini strabici. Certo. E a proposito di guardare direttamente negli occhi, appena vediamo che un nostro bambino, un nostro nipote, sempre più frequentemente vengono affidati ai nonni, ha soprattutto verso i tre anni e mezzo, comincia a spostare uno degli occhi all'interno più frequentemente o qualche volta all'esterno, anche se occasionalmente, è un motivo di allarme invece che dire vabbè poi passerà, perché vuol dire che potrebbe avere un difetto di vista che potrebbe avere gravi conseguenze poi sulla capacità di sviluppo visivo, perché gli strabismi oggi si guariscono, non so se i nostri ascoltatori sono consci, che strabici in giro se ne vedono sempre meno, e questo soprattutto perché i bambini vengono curati da piccoli. 800 24 00 24, guardiamo anche i nostri occhi e dove si appoggia lo sguardo, eh? 800 24 00 24, dottor Rossato, torno a lei, perché i movimenti dei nostri occhi, mi riferisco a quei movimenti che ci permettono di osservare quello che ci sta intorno senza bisogno di girare la testa, come ad esempio devono fare i polli, sono regolati da muscoli esterni. Ma io come faccio a capire che questi muscoli funzionano bene e correttamente? Ah sì, certamente. Restiamo sul pratico, così coinvolgiamo tutti i nostri ascoltatori. Se noi volessimo fare un piccolo esercizio, poniamo le due nostre mani, le braccia allungate, una più vicina e una più lontano, estendiamo i due indici e facciamo un allineamento guardando il primo indice, mettendo in allineamento il secondo indice e un terzo punto più lontano, che potrebbe essere una maniglia, potrebbe essere il chiodo di un quadro, e cerchiamo di allineare questi tre punti. Poi, restando fermi, chiudiamo prima un occhio, magari prima il sinistro, fermi e vediamo che cosa succede, poi riapriamo il sinistro, chiudiamo il destro e vediamo che cosa succede, e vedremo, ci accorgeremo se siamo in equilibrio rispetto all'asse visivo della nostra binocularità, perché noi abbiamo due occhi che si devono fondere perfettamente assieme, oppure se abbiamo una lateralità errata, un difetto di convergenza, qualche cosa, adesso senza entrare in termini medici, che ci dà un'alterazione, come abbiamo sentito ben dire il mio collega il dottor Scialdone, che spesso è legato ai muscoli degli occhi, come questi bambini che hanno questa sindrome un po' particolare, un po' rara, ma molto più spesso arrivano queste persone che hanno un allineamento sbagliato, magari sono degli sportivi, sì, magari prendiamo che sia uno che giocatore gioca a basket di tennis. O a tennis, e che vorrebbe prendere la pallina e la pallina scappa sopra destra e sinistra, non riesce a lanciare la pallina dove vorrebbe, oppure un giocatore quindi non di è una schiappa, dottor Rossato, ma non allinea bene, forse non riesce. Io non allineerò bene perché sono sempre stata una schiappa a tennis, adesso riciclerò questa giustificazione. Si può fare qualcosa però, dottor Rossato? Certamente, sicuramente, abbiamo appena sentito che questi problemi si curano e si guariscono. Spesso noi medici abbiamo paura a dire il termine guarire, questo è il caso di dire guarire, non è solo una cura ma una guarigione, vuol dire ritornare perfettamente nella funzione, e questo vuol dire cambiare la vita di una persona. Avrei in linea con noi Massimo Dall'Aquila. Buongiorno Massimo, buongiorno a lei. Buongiorno, volevo porre una domanda al dottorato. Io sono un allenatore di rugby, sì, in particolare di Mischia, e mi trovo spesso a dover migliorare l'attitudine degli atleti, soprattutto di prima linea, allo sbilanciamento. Mi chiedevo se esisteva un esercizio, visto che lo sguardo è direttamente legato alla postura, sì, per poter migliorare appunto questa attitudine. Allora, qua si parla difficile, dottor Rossato. Lei non so se lei è preparato per rispondere a questa domanda, su questo spero sbilanciamento del rugby. Allora, l'anno scorso a Cortina abbiamo fatto una manifestazione che si chiama Rugby 7, perché il Rugby 7 è stato inserito come disciplina olimpica appunto l'anno scorso. Sì. Quest'anno proprio qui a Padova, dove ci sono io, abbiamo appunto una manifestazione mondiale del rugby in cui tutti questi giovani si incontrano ed è molto bello vederli, perché c'è veramente uno spirito di corpo, puro agonismo, certo, di corpo, ed è molto sano, molto sano. Ecco, l'anno scorso proprio a Cortina abbiamo fatto una dimostrazione di come i ragazzi della nazionale di rugby venivano cambiati, sì, si provocavano, si stimolavano dei riflessi che consentivano un cambiamento istantaneo in 10 secondi. È stato molto interessante vedere come si riusciva a cambiare alcune posture, alcune abitudini, prestazioni fisiche. Sì. Si può cambiare una prestazione fisica mettendo a disposizione dell'atleta i muscoli del proprio corpo, che non sono più a disposizione perché fanno un lavoro per correggere un errore indotto, per esempio, dagli occhi o dai piedi o dall'occlusione. Ma il nostro ascoltatore, quindi lei ha un esercizio semplice che in 2 minuti riuscirebbe a far lavorare meglio la squadra? Sì, sicuramente sì. Dai, diamoglielo. Lanciamolo. Beh. Allora, si dovrebbe mettere questo giocatore sopra una pedana propriocettiva. Sì. Il giocatore sopra la pedana propriocettiva indosserà degli occhialini, di quelli come per vedere i film tridimensionali con 2 colori diversi. Sì. Si utilizzerà una corda fluorescente che tanti mi hanno visto alle nazionali adesso di pallavolo usare con le giocatrici del femminile, l'under 16. E farà degli esercizi di fusione partendo da una convergenza, diciamo dalla punta del naso molto vicina, e andando a un angolo stretto, stretto, stretto di convergenza distante, mentre i piedi devono creare un esercizio di propriocezione dell'atleta. Mi sembra una cosa abbastanza complicata, ma se lei mi dice che funziona e sugli atleti funziona, mi affido. Dottor Cialdone, a proposito di occhi, torniamo a noi. Lei spesso, quando viene in studio, adesso in linea, suggerisce ai nostri ascoltatori un esercizio molto semplice che io faccio spesso. È quello di provare a vedere con un occhio solo e poi guardare l'altro, alternare, no? È un esercizio che può sempre essere utile per tenere una sorta di autocontrollo della nostra vista? Sì, questo direi che è abbastanza agevole, semplice, e soprattutto permette di rendersi conto di quello che sta succedendo. Un certo numero di persone, ad esempio, stupisce, pure è così, viene a fare una visita, un controllo, dice: sa, mi sembra di non vedere bene, ma scusi, quale occhio non vede bene? Ah, non lo so. Quindi molta gente poi nella fusione delle due immagini non riesce neanche a rendersi conto quanto vede meno, e a volte, per fortuna non raramente, ci potrebbero essere delle malattie o delle alterazioni che, prese un filino prima, basterebbe proprio chiudere un occhio per volta, si riuscirebbero a diagnosticare o a riuscire a cominciare a curare un po' prima. Essere e benessere. D'accordo, senti, io non sarei voluto arrivare a questo, ma ormai non mi lasci scelta. Sguardo che conquista. Deve essere una giornata no per me, in genere funziona sempre. Bene, ti porto a vedere le lanterne. Davvero? Non so se abbia uno sguardo che conquista Angelo da Milano, ma secondo me sì. Angelo, buongiorno. Pronto? Buongiorno, allo sguardo che conquista lei? Che le dicono? No, buongiorno Nicoletta, no, non credo di avere lo sguardo che conquista. Va bene, la prendiamo lo stesso, Angelo. Va bene, grazie. Senta, io ho le palpebre, non so se è nel tema della trasmissione. Innanzitutto volevo fare i complimenti a tutta la radio, perché siete una radio eccezionale. questo così. Bravo, bravo, bravo, Angelo, mi piacciono i complimenti. Ok. Va bene, fanno piacere sempre. Senta, ho le palpebre, sia quella superiore che quella inferiore, e soprattutto verso gli angoli esterni, piene di pallini bianchi che credo siano, non so, sebo, non so che cosa sia. Volevo capire se c'è qualcosa da fare, che posso fare, sì, e se devo in qualche modo preoccuparmi. Allora, io direi preoccuparsi no, vero dottor Corradin? C'è sempre tempo per preoccuparsi, no? Bisogna informarsi, poi vediamo. Poi certo, qui ovviamente per la parte più prettamente oculistica ci deve rispondere ovviamente l'oculista. Per la parte che possiamo dire noi, perché ricordo sempre che la medicina cinese è una medicina fisica, ma contemporaneamente una medicina psicosomatica. Le palpebre in questo senso sono, sia la palpebra superiore che la palpebra inferiore, sono espressione del nostro fegato, ma in realtà di un'altra grande funzione che si chiama milza, che è il modo con cui noi abbiamo di partecipare al mondo, che è il nostro modo di utilizzare il mondo, di mangiare il mondo, di partecipare e di vivere all'interno del mondo. Ovviamente, come io dico sempre ai miei pazienti, alle persone, agli amici che vengono a trovarmi, prima vediamo il problema in medicina occidentale, poi lo osserviamo in medicina cinese. In generale, comunque, i piccoli pillomi penduli che a volte capitano sulle palpebre, le piccole cisti sebacee che possono capitare, per noi sono espressione anche di un'alterazione psicosomatica, ma a volte anche semplicemente di un'alterazione alimentare, ma ovviamente bisogna assolutamente sentire il dermatologo e l'oculista che cosa ci dicono. Dottor Scialdone, l'oculista non si occupa di palpebre, giusto? Diciamo che la risposta al nostro ascoltatore ovviamente non può essere diretta, perché come giustamente è stato rilevato, o dei piccoli fibromini che potrebbero essere multipli, o anche a volte una serie di infezioni microvirali dei grani di miglio, è difficile per radio fare diagnosi. Certo. Però approfitterei dell'occasione per fare un'altra associazione di tipo posturale. Mi piace. Cioè, in caso di leggere alterazioni di tipo, per esempio, miastenico, o alterazioni anche di tipo tiroideo, eccetera, le palpebre si possono leggermente abbassare e la persona tende, non accorgendosene, ad alzare la testa, perché la palpebra gli nasconde un pochino lo sguardo. E quindi ci vuole un po', e poi gli viene mal di collo, tiene su spesso le sopracciglia o la fronte per cercare di compensare la cosa, e questo poi può causare eventualmente anche casi di mal di testa. Quindi in questi casi osservare anche quanto si fa fatica a tenere su le palpebre e tutti i muscoli della fronte, perché potrebbe esserci un problema, per esempio, secondario che si riflette sui muscoli delle palpebre. Dottor Scialdone, sicuramente il dottor Rossato sarà d'accordo su questa sua lettura, vero dottor Rossato? Sì, sì, sì, certamente. Allora direi che va considerato, sempre che stiamo parlando, delle persone che non sono degli specialisti e che capiranno bene alcuni esempi. Allora, per esempio, noi sappiamo tutti che abbiamo la mano dominante a destra e a sinistra, a seconda se siamo destrimani o mancini. Anche l'occhio ha un occhio dominante, quindi potrebbe essere il destro o il sinistro. Sì. Questo, nel caso in cui ci sia un'alterazione della muscolatura estrinseca, quella esterna, quella che fa girare i globi oculari, non quella per mettere a fuoco, per vedere, eccetera, porterà a dare una rotazione, una lateralità della testa, poi magari questa persona indossa gli occhiali e quindi inclinerà la testa per cercare il fuoco sulla lente, se questo non è ben allineato col centro della pupilla, ecco che subito abbiamo creato un'alterazione posturale della testa sul collo, del collo sul tronco, che porta a una torsione elicoidale dei dischi intervertebrali della colonna cervicale. Andiamo sul difficile, ma vuol dire praticamente che poi ci troviamo con un dolore che parte dalla cervicale e può scendere. Sì, i famosi dolori cervicali che tutti parlano, ma anche le ernie discali cervicali, anche le parestesie delle mani, delle braccia, e quindi tutta una serie di patologie molto frequenti nei tempi di oggi. Dottor Cialdone, quindi lei come oculista si sente di consigliare una visita posturologica? Ho detto bene? Prima di affrontare un disturbo visivo? O contemporaneamente? Ma diciamo, se la persona ha già un evidente disturbo visivo a se stesso, la risposta è ovvia, visita oculistica. Però io vedo sempre di più, anche se ancora quantitativamente forse non sufficienti, persone inviate dall'ortopedico o dal dentista o dal posturologo per essere sicuri che non ci siano anomalie oculari che giudichino eventuali condizioni dolorose o di cifosi o di alterazioni insomma della postura o della colonna, e questo mi sembra sicuramente una cosa positiva. Assolutamente. Esattamente. Io devo salutarvi perché dobbiamo essere precisissimi, sono le 11:54 e 50 secondi, devo salutarvi e a darvi appuntamento a domani. Saluto i miei esperti, oggi ci avete proprio fatto stare bene, il dottor Corradini, il dottor Rossato, il dottor Cialdone. Saluto soprattutto voi che mi seguite con affetto e io vi aspetto come sempre domani alle 11. Buonissima giornata, buoni sguardi. Essere e benessere.